vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici, io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Siete una valvola di fuoco fenomenale, minchia, non abbandonate, continuate a picchiare duro e Razzi e Sgarbi cazzo tutta la vita, ti prego. Buonasera, io vorrei parlare di puttane. E il conduttore? Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Amici camionisti, ascoltate la Zanzara perché è un programma senza filtri, è tutto vero, non c'è niente di complottato. Allora ragazzi, continuo a ricevere decine e decine di mail di gente che qualche, per carità, io poi voglio rispettare tutti, non voglio dire niente di insultante, sennò dicono tu sei arrogante, sei uno che disprezza, sei uno che insulta, eccetera eccetera, però lasciamo perdere le minacce di morte di cui non me ne può fregare di meno. Sentite questa signora che si chiama Paola, io non dico mai i cognomi, non dico mai i cognomi. I vegani e i vegetariani sono in aumento in tutto il mondo ed è un movimento trasversale e in forte crescita, con cui occorre fare i conti invece che schernire, mortificare e provocare. Brrr, che paura, che paura. Cruciani ha un comportamento davvero irresponsabile verso la salute pubblica. In un momento come questo in cui medici, Nazioni Unite, FAO, organizzazioni ambientaliste, Organizzazione Mondiale della Sanità consigliano di passare a una dieta vegana e vegetariana di cui possano beneficiare la nostra salute e la salute del nostro pianeta. Cioè, ma voi vi rendete conto? Cioè, questi qua, non tutti ovviamente, ma molti, molti ragazzi, molti, molti di questi sono terroristi, cioè sono delle persone che se dovessero, no, ma io, se uno dovesse prendere il potere, se un vegano estremista dovesse, bisogna veramente fare lo scanner spesso delle persone che possono governarci. Io voglio sapere se uno che può andare al governo è vegano, perché se è vegano non lo voto, cioè se è vegano è un pericolo, perché questi qua ti impongono le diete, dicono tu mangi la carne, ti guardano strano, mangi la carne, sei pericoloso, sei pericolosissimo, sei un pericolo pubblico. Tu pensa se incontri un giudice vegano che ti vuole giudicare, Parenzo. Cioè, se un giudice, se io vado davanti a un giudice vegano, secondo te posso chiedere, posso ricusarlo o no? Vabbè, ma questo. Ma dimmi se posso ricusarlo. Ma no, ma questo. Dai, posso ricusarlo, dai. Ma perché? Secondo me potrei ricusarlo. Se io adesso. Perché ha un preconcetto. Io ti giuro, se vado in tribunale, voglio che un giudice mi dica se è vegano o no. Perché se è vegano, lo voglio ricusare. Lo voglio ricusare. Sì, ci sta. Ci sta, ci sta, dai, ci sta. No, vabbè. E il conduttore? Allora, ho ascoltato con grande passione ieri sera una trasmissione televisiva che si chiama Ballarò, dove c'erano delle voci da Rozzano, il paese che ormai è diventato il centro del mondo, no? Rozzano viene soprannominato in un certo modo Rozzano, adesso non mi ricordo. Los Angeles. Sì, Los Angeles, bravo, bravo, me l'hai ricordato. Perché diciamo, insomma, mio amico carissimo che... non in senso positivo, su no, Rozzano. Los Angeles, Los Angeles. Perché dicono ci sono un sacco di gang, no? Sì. Non sì, un sacco di delinquenti, non gangbang, delinquenti. No. Ma perché, se, perché mi devi per forza subito far andare sul pecoreccio, sul sesso, eccetera? Io. Sei tu che mistichi. Io. Sei tu che mistichi, allora. Ah, bello. Sei tu che mistichi. Ah, bello. Allora, questo. Senti queste voci, perché sono abbastanza curiose. Tu dirai, no, ecco, non dire più niente, ecco quello che provoca Salvini, ecco quello che provoca, sì, ecco quello che provocano i politici che, come dici tu, vogliono sequestrare Dio, no? Vogliono sequestrare il crocefisso. Lo hanno sequestrato. No, ma senti queste voci delle persone che sono lì quando ci sono le trasmissioni, quando ci sono le telecamere, insomma, quando c'è la processione dei politici, no, che criticano la scelta di quel preside di vietare i canti natalizi. Senti. Ma ci sono i bambini italiani. Ma che vuol dire? Che non hanno il padre, hanno i padri in galera, hanno li vuoi festeggiare i bambini? Vuol dire che sono li vuoi bambini. Fare festeggiare? Sì, e allora non sono umana, ce l'ho cazzo di qua. Non è che un po' la politica strumentalizza anche questa? No, non è una strumentalizzazione. Viva il Duce addirittura. Sono fascista e credo. Le nostre tradizioni sono cattoliche, cristiane. Ma che c'entra il Duce però? Vabbè, mi è scappata perché sono un fascista. Ce ne vorrebbero mille, ce ne vorrebbero mille. Tranquillo che se ci fosse Mussolini su questa non c'era. Tu sei un servo di partito, tu sei un giornalista servo di partito. Addirittura. Come tutti i giornalisti, come tutti, siete servi di partito. Sei un comunista di merda, te lo garantisco io. Siamo due giovani, ma sputiamo verità sul microfono. Viva il Duce! Viva il Duce! Ci vuole un nuovo Mussolini! Ci vuole un Mussolini! E Salvini quest'anno è il Salvini deve salire al governo. C'era una dittatura! C'era una dittatura! C'era il Duce! La gente studiava, lavorava e viveva bene. A un certo punto c'è uno, vabbè, gente che grida Salvini è come Mussolini, eccetera, eccetera. Ma è facile andare in una periferia e tirare fuori sta roba, eh? Per carità, facile, poi bisogna. No, lì pure. In quei giorni c'era anche. Questa era la Lasta. Aspetta, a un certo punto uno. No, c'era un convegno di nazisti, un concerto di nazisti. Vabbè, ma chi se ne frega, dai, quello, diamo spazio a cose inesistenti, dai. Quello era il concerto di nazisti. Su un pianerottolo, a un certo punto c'era un tizio che gridava, senti. Devono morire tutti i musulmani. Ma loro ci vanno a ammazzare noi, noi così ammazziamo loro. Sta banda di bastate. E vengono a casa nostra, leva il crocifisso dalla scuola, leva questo. Oh, ma andate a fanculo al paese vostro. Ma me ne devo andare che sto i domiciliari. Non me ne vado perché sono ai domiciliari. Ecco, capisci? Questa che l'ho trovata. Tutto... Però devo dire la verità, sì, che l'ho trovata straordinaria. Geniale, geniale. Cioè, devono morire tutti i musulmani, sta banda di bastardi, andate a fanculo al paese ora, nostro. Scusate, devo andare perché sto ai domiciliari. Sono ai domiciliari. Capisci, cioè, sono un delinquente che... italiano. Ma sono... capisci? Le parole d'ordine della Lega, no, chi no, sono no, in no, bocca? Però, ma adesso, scusa. Adesso tu stai confondendo le cose. Stai dicendo che la Lega, la Lega produce questa roba qua. No, io ti ho detto che gli elettori della Lega sono questi, stai dicendo. Beh, alcuni evidentemente anche, non tutti perché sennò non avrebbe quelle percentuali così alte, è evidente, ma alcuni lo dicono anche loro, ma mi pare chiaro, lampante, microfonato come si dice. Allora, c'è un vescovo, il vescovo di Padova, il signor Claudio Cipolla. Sì, Claudio Cipolla. Signor Cipolla. Adesso non dire che sei d'accordo anche con il signor Cipolla per quello che ha detto, perché ha detto veramente una puttanata. Adesso, oggettivamente ha detto una puttanata. Signor con Cipolla. Grande rispetto delle autorità civili, politiche e militari, nonché signor religiose. Cipolla. Signor Cipolla, no, vescovo Cipolla, ha detto una strozzata, dai, su. Di cosa ha detto? Ha detto non è la cipolla quella del piede. La luce valgo, sei la luce valgo, è bruttissima la luce valgo, lo sai? Non cioè la parola cipolla, non so perché mi fa venire in mente la luce valgo. A me è uno storico dell'economia che tu non leggi sì, mai. Sì, è vero, no, come no, cipolla, come no, certo. Lo conosco, sì, l'ho letto pochissimo, non mi ricordo assolutamente nulla, non me ne ho fregato meno. Però, l'ottimo, però, cioè, uno però, storico dell'economia. Però, sì, me lo cita sempre napoletano. Cipolla, a me cipolla, ricorda solo la mi ricorda solo la cipolla. Parla di cipolla, chiamate cipolla. Il direttore, ma non sappiamo cosa. Cipolla, chiamate cipolla! Poi. Fate presto, cipolla, dov'è cipolla? No, chi c'è? L'economista. Claudio Cipolla, vescovo di Padova. Cipolla invece in studio, in ufficio. Ah, no, sei arrabbiato, è successo. Vescovo di Padova, che dice marcia indietro, bisogna fare marcia indietro sulle nostre tradizioni per mantenere la pace. Ma secondo me non ha detto, c'è un audio, senti, io l'ho c'è letto l'audio, scritto. Senti l'audio. Ah. Se fosse necessario per mantenerci nella tranquillità, nelle relazioni fraterne tra di noi, io non avrei paura a fare marcia indietro su tante nostre tradizioni. non è stato interpretato male, caro, ha detto proprio questo: bisogna fare marcia indietro sulle nostre tradizioni per mantenere la pace. Ora, io quello che penso delle nostre tradizioni, voi lo sapete, me ne sbatto altamente i coglioni. Ecco, non mi va quindi di avere tradizioni, vivo nelle mie cose, non me ne frega niente dei gruppi, delle tradizioni, della cultura, della tradizione di un paese, non me ne può fregare di meno, cioè sono totalmente ateo. Però un vescovo, amico mio, che cala le braghe così, ma di fronte, cala le braghe. Disinnescare una guerra. Cioè tu gli dai ragione, invece... no, dillo fino in fondo se gli dai ragione, però assumiti le tue responsabilità di fronte agli ascoltatori. No, io penso che le tradizioni facciano parte di un paese, quindi non c'è da abdicare a nulla. Ha sbagliato, non menare il can per l'aia, non la menare troppo, ha sbagliato, no, sì o no? In generale avrebbe sbagliato, detto oggi ha ragione invece, detto nel contesto di oggi, in generale vanno salvaguardate le tradizioni, ma non c'è dubbio. Ma non puoi, sì, ha sbagliato o no? Sì e no, dici, ha fatto bene, dici. Ma oggi siamo di fronte a della gente che sta dei politici che stanno strumentalizzando Dio. No, lui non parlava conto, di quello, no. Non parlava di quello. Lui non parlava anche, di quello. No, non parlava di quello. Ma cosa si riferisce, scusa? No, c'è un altro prete che ha detto queste cose, un altro prete che si chiama Don Corazzina, non so chi è. Questo qua che dice: chi difende il presepe ma non ascolta il Vangelo è schizofrenico. Sì, d'accordo, però è una persona che mi difende il presepio, o mi canta il tu scendi dalle stelle, o mi dice che dobbiamo difendere la nostra identità e le nostre radici culturali, e rifiuta la logica del Vangelo, vuol dire che ha dei problemi di schizofrenia sociale, politica e culturale. Si rivolge alla Lega, perché dite, voi non seguite il Vangelo quando si tratta sicuramente di accoglienza, no, eh? E invece impugnate il crocefisso. Esatto. Vabbè ragazzi, c'è il traffico, ci dobbiamo fermare. Pippe, molte pippe. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Lei semina odio, lei semina odio, è chiaro? Blackberry, bam, lam, whoa, Blackberry, bam, lam, Blackberry had a child, bam, lam, the damn thing gone wild. Allora, prima di dare, come dire, no, di aprire i microfoni, come si dice nel gergo radiofonico che odio, di aprire i microfoni, aprire espressione le danze, orrenda, diciamo, allora, aprire le danze. Al numero 800 24 00 24, mentre abbiamo anche un altro numero da un po' di giorni che è ricco di sorprese, 393 71 71 701. Ti preoccupa quel secondo WhatsApp, numero? Ti preoccupa. Molto. C'è un signore, che tra l'altro è anche un mio amico, che si chiama Alessandro Giglioli, che scrive: credo siamo l'unico paese al mondo in cui l'associazione ufficiale degli imprenditori ha una radio i cui programmi di punta sono condotti da estremisti che urlano contro lo Stato o difendono il diritto di uccidere i topi di appartamento, e mi rivolgo a Giannino e Cruciani. Cioè lui urlerebbe contro lo Stato, Giannini, lo Stato, non lo Stato, e i topi di appartamento difendono il diritto di uccidere i topi di appartamento, siciliano. Sarei io lo rivendico, sì, assolutamente. Beh, è una sintesi giusta quella di... Ma non lo so, mi sembra piuttosto infelice come sintesi, può fare di meglio Giglioli, comunque non c'entra niente, per fortuna l'associazione ufficiale degli imprenditori è libera di far esprimere le persone come vuole, e questa è una cosa molto preziosa, caro Giglioli. Cioè io posso parlare come mi pare, e soprattutto di tutti gli argomenti, e esprimere le mie idee liberamente. Questa è una grande cosa che questa radio ci consente di fare. E allora andiamo con Alessandro dalla provincia di Verona, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Ciao David. Allora, ciao, senti, io sono un animalista vegano e guarda un po', non rompo i coglioni a nessuno. Ma questo è fondamentale. Esatto, appunto. Però quello che vorrei dire è che continuare a dire che gli animalisti sono dei rompicazzo, i vegani sono dei rompicazzo, è come dire che gli islamici sono tutti dei terroristi, la stessa cosa. No, amico mio, io non ho detto questo, perché non mi rivolgo a tutti, naturalmente. Okay. Io parlo di quelli vegani, che mi considerano, okay, che okay, mi considerano un coglione, una testa di cazzo, se non addirittura un assassino in alcuni casi, capito? Allora io ti dico quella che è la mia... Soprattutto uno che non si informa, perché se uno si informasse non dovrebbe più mangiare la carne, questo è il punto, capito? Allora, quello che ti dico io è che spesso mi succede il contrario. Cioè? Il contrario, che la gente mi caga il cazzo perché sono vegano. Ovvero sono a cena con gli non gli onnivori, scusa, quelli che mangiano normale, come dici tu, se no ti incazzi, e mi dicono, io spesso chiedo, c'è un piatto vegano, spesso viene fuori lo chef, viene lì, ci parliamo, addirittura la prende a volte come sfida, no? Sì. E mi fa un piatto figo. Allora le persone iniziano, ma da quant'è che non mangi la carne e perché lo fai? Allora? Eccetera. Quello che succede. Ah, tu dici che quelli che ti rompono le balle sono, sono gli altri. Aspetta, no, no, aspetta, immediatamente mi rompono i coglioni perché si sentono in colpa. Ma io la carne la mangio pochissimo e io immediatamente dico: ma a me che cazzo me ne frega di quanto mangi la carne? Mm. Un amico ascoltatore mi scrive: vuoi salvare l'insalata? Sopprimi un vegano. Sì, questa è una battuta che circola da un po' di tempo. Come quella stupenda che ho postato oggi su Facebook. Non dirò chi è che mi ha messaggiato, ma sugli animali, un autorevole personaggio. Sugli animali da compagnia, no? Cioè sui conigli come animali da compagnia. Esatto. L'unica compagnia possibile è quella con le patate arrosto. Stupendo posto su Facebook. Allora, altra cosa. Un po' di ironia, no? Sì, certo, vergogna! Le patate arrosto, il coniglio. Ma no, ma vedi, quello. Ma dimmi che sono pazzi quelli che vogliono fare la campagna per eliminare il coniglio, amico mio vegano, dai. Allora, secondo me sono pazzi, però quello che dico, no, aspetta, quello che dico è che tu sei caduto più o meno nello stesso tranello. Ma non è il tranello, io faccio il conduttore radiofonico, non sono il capo dell'antilab. No, ma faccio il conduttore di una trasmissione. Per fortuna dico quello che penso, non devo fare artifici, capito? Cioè non devo fingere. Non devi fingere, ok, però io passo per strada, vedo una campagna di animalisti che ti sbattono il video e i cartelli. Sì. Mi fa schifo. Ed è perché ti fa schifo? Perché non c'è bisogno di fare quella pornografia lì per sensibilizzarmi. Cioè, loro se poi la mia sarebbe pornografia, invece loro no. No, la loro sì, io sono con te dicendo che è pornografia. Animalista e vegano è con me, stupendo Alessandro. Sì, e poi... Però il mio rischio qual è? Quello di passare come cosa? Qual è il rischio che corro? No, non corri, di trombare un po' male. No, questa cosa non mi dire che si tromba meglio, dai, su. Spiegamelo, dai. Allora, tu interpreta l'atto sessuale, fare l'amore, sostanzialmente come un 70% di attività fisica, come una corsetta, no? Una corsetta leggera, e il resto sono quelle che diceva appunto anche Corrado Passera, gli sguardi e tutte quelle robe lì. Corrado Passera, quello che ha chiamato l'altra sera. Corrado Passera, avevo capito Corrado Passera, Italia Unica. Ah, Corrado, quello da Bari, sì, ho capito. Quello da Bari. Allora? Quello che io ho ribattezzato se è attività fisica per il 70%, se tu vai a cena con una tipa, no? E ti mangi una fiorentina e ti scoli un litro di Lambrusco, sì. Poi... Sei più pesante, dici? Sei più pesante. Ma poi un'ultima cosa. No, però scusami, ti posso fare un esempio. Qualche sera fa. Ma quella è una scopata, mangiarti una fiorentina e berti un litro di vino. Come fai dopo a fartene un'altra? Guarda, ti posso dire. Animal triste. E sei il vegano più divertente che ho mai conosciuto, più simpatico. Questa citazione in latino, fagliela dire, però, perché almeno nobilitiamo un attimo. Coitum animal triste. Se tu dopo una magnata di fiorentina sei triste, perché sei appagato. Non puoi andare a fare l'amore un'altra volta. Cioè non puoi fare il coito, vero? Insomma, non il coito. Puoi farlo, se invece vai... Sì, però ti segnalo una cosa, io l'altra sera, non dipende solo da questo, qualche sera fa di un anno X, ho mangiato un piatto vegano, ragazzi, bisogna ammettere le cose, qualcuno mi voleva fare la foto, ho mangiato un piatto vegano, in un ristorante faceva un piatto vegano, l'ho preso perché ogni tanto le cose vegane mi piacciono, effettivamente sembrano in apparenza più leggere. Dopo ero con una gentile signorina. Amico mio, non ero in gran forma, devo dirti la verità, perché non dipendeva, per mille motivi, non lo so. È per mille motivi. Ma e non io, per quello, io so ma motivo, no. Io so un altro motivo, perché essendo un depravato come te, ogni tanto vi guardo in web. Questo lo dici tu, io... In web. No, secondo me sei un po' ma io sono contento, perché nel senso più le persone sono depravate, più sono intelligenti. Hanno depravazioni e più sono curioso. Comunque io vi guardo in webcam. Che hai visto? Io ogni tanto ti vedo spesso grattarti le palle, prenderti il spazio. Sono sempre alle 18:54 io sulla radio di Confindustria, direbbe Parenzo. No, in questo caso come dargli torto, conoscendoti io da 5 anni e questo testimoniare anche l'avvocato Trucco che potremmo collegare ragazzi, abbiamo iniziato in maniera seria, mi sono mettendo un sacco di roba, il crocefisso, Rozzano, i conigli, ha fatto una valutazione oggettiva. Siamo arrivati già alle 18:55 al fatto che Cruciani si tocca il pacco, dai, su. Aspetta, io ho spesso ti vedo che dai il traffico, appena dai il traffico ti sistemi il pacco. Allora, quello che ti dico io ho notato una cosa. Sì, ma può essere avere... anche vero, ma allora ma questo che basta sentire è Trucco e Savignoni, cioè non è che ci vuole perché. Tanto. Spiego questo perché. Lo perché diciamo sai, sempre, però. Allora? Siccome c'hai i pantaloni aderenti, perché vuoi ma mostrare non è vero, ma a questa... tutte le persone che c'hai un pacco. Però. Ma tu non sei, sei talmente simpatico che non puoi essere vegano, non puoi essere vegano. Cioè, te lo giuro. Allora, non sei vegano, cioè, ci hai detto una puttanata. No, perché spesso sono sempre super. No, non, sei serioso, il veganesimo. Com'è che direbbe Prodi, Parenzo? Il veganesimo? Veganesimo. Con calma. Giornale latina, radio. No, la carne violenta. Cruciani, non voglio scendere al suo livello, se lo lasci dire. È una vergogna quello che fa lei. Il segnale orario vi è offerto da. Stufe e caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai. Questa trasmissione è massacrata. I came to LA to make rock and roll. Along the way I had to sell my soul. Vai, cioè, Cruciani ti eccita abbastanza la bestialità. LA. Bisogna sentire il contatto, bisogna sentire. La prima volta sono andato a mangiare il cane per avere più nemici tra le fila dei vegetariani. E poi ho scoperto che il cane è ottimo, lo mangerò sempre. Lucia, il gatto fatto alla cacciatora è una delizia. Lucia, il gatto fatto alla cacciatora è una delizia. Sti vegani hanno rotto il cazzo, se la mangiassero loro l'erba dei prati, Beppe! Ah, buonasera, senta, a me mi sembra eccessivo tutto sto casino ogni sera a parlare dei formigli, insomma l'intervento pure degli animalisti, mi sembra eccessivo tutti questi episodi di cannibalismo, ti mangiassi a formigli in diretta, cioè mi sembra veramente assurdo e fuori dal mondo, perciò insomma crucia pure lei che si mette in mezzo a ste storie, insomma è un collega serio, un collega che lavora alla 7, ma mangiasselo in diretta mi sembra davvero una crudeltà. Questo devo dire che è geniale. Ha messo formiglia al posto del coniglio. Non ho capito, infatti, non capivo sì, se era un errore voluto. No, io ho dovuto risentire 2-3 volte per capirlo. In realtà, no, ha fatto apposta a mettere formiglia al posto del coniglio, dicendo che è una crudeltà questo, il fatto che vogliamo fare del cannibalismo mangiandoci un nostro collega. Poi io mi domandavo una cosa, no? Ma scusate, perché questi qua che rompono le balle sul coniglio non se la prendono, per esempio, con MasterChef o programmi simili? Ma non dico che se la devono prendere, assolutamente no, ma perché non vanno a fare presidio ogni giorno con tutti questi programmi che in realtà uccidono anche loro indirettamente, ovviamente, no? Preparano piatti con carne, pesce e quant'altro, ma ancora peggio, non lo fanno per mangiare, cioè lo fanno per produrre una trasmissione. Beh sì, però lì qualcuno mangia poi, eh? Sì, non è che vabbè, ho capito, via. Come no? Buttano via sicuramente un sacco di roba. Ma come no? Io lo so benissimo, no. Buttano via un sacco di roba, ma no, a parte no. Me ne frego, non è quello il punto. Cioè lo fanno per soldi, cioè lo fanno per mangiare, cioè per non per mangiare, ma per fare una trasmissione, per lo show. Andassero a fare una manifestazione ogni giorno, questi qua convinti. Ma non dare idee, perché già mi parla la situazione calda. È questione già. Che dovrebbero fare un presidio fisso nei confronti di MasterChef e di tutte queste trasmissioni qua contro i cuochi in televisione, perché questi qua indirettamente, secondo loro, non secondo me ovviamente, ammazzano pesci, animali per produrre carne, per portare carne sulla, non sul piatto degli italiani per mangiare, ma davanti alla televisione per lo show. Dunque rompessero i coglioni a loro, dai. Lorenzo da Milano, vai Lorenzo, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Allora, io volevo dire che comunque bisogna fare una differenza tra vegani. Ci sono due categorie. cioè la categoria di vegano che non mangia carne, eccetera, perché ama gli animali, sì, e quella è quasi una malattia mentale. Sì. E poi invece ci sono quelli che sono convinti che invece la carne faccia male per come è costituito il nostro stomaco, eccetera. Allora? Il motivo per cui chiamavo, sì, qual è? Che poi mi hanno passato in diretta, è che io avevo questo, anzi ho ancora questo, sorta di allevamento con più di 60 conigli. Sì. Ogni coniglio ha un nome, ogni coniglio ha una storia, eccetera, viene coccolato e tutto, e poi viene anche mangiato. Cioè, Lorenzo, senza, tu hai un allevamento, dico, un piccolo allevamento di conigli, mi stai, sì, dicendo. Ma li vendi oppure li allevi per poi mangiarteli? No, non vendo niente. Cioè, li allevi per poi mangiarli? Anche per poi coccolarli e anche mangiarli, perché danno l'aspetto, sì, beh, certo, non come un cane, però. Mm. Ma quanti ne hai di questi conigli, scusami? Da due sono diventati più di 60. Hai 60? Ma dove abiti, scusa, per avere 60 conigli? Beh, sono in una casa con un certo giardino. A Milano? Io sono di Milano, però no, un po' più su Brianza. In Brianza, hai una casa con giardino dove hai 60 conigli. Alcuni di questi ogni tanto, esatto, li prendi, ma come li ammazzi, scusa? Beh, se, non mi occupo io, comunque, vabbè, c'è un... Un contadino, chi c'è? Tirando il collo, praticamente. Tirando il collo, ma non so se si possa fare in realtà, tirare il collo ai conigli. Vabbè, te che cazzo ti frega? Però infatti, ma poi non me ne occupo io di questo. Non ti occupo, le maestranze. Ti eccita le così maestranze. Tanto sta roba dei conigli, ti eccita? Ma chi? Io non ho capito. Chi? A te un po' ti eccita questa roba? No, sono curioso coniglio. A sapere cosa mi eccita. Non ho capito cos'è che mi eccita. No, così questa hai questa qualcosa cosa... da dire o no? Cioè, non, che cos'è che mi eccita? Non ho no, capito. Ti eccita sapere cosa, come muore il coniglio. Ma non è che... Sai che se io penso, però a parte gli scherzi, se io penso... Non sono, io sono curioso di tutto, anche di queste no, cose. No, d'accordo, qui. Ma se io penso a come viene fatto, ad esempio, se io dovessi assistere a una macellazione di una mucca... Non mangeresti più la carne. No, questo non lo dico. Probabilmente però per un giorno, barra una settimana, forse non la mangerei. Questo sì, non forse lo non so, la mangerei. Non lo so, non credo. Io ho visto tante cose in televisione, non mi sono mai... No, ma se tu dovessi assistere a una... Non lo so. Ma vuoi dirmi... penso non da credo, un punto ne di ho visti vista... in televisione, perché ne fanno girare un sacco di questi documentari, ma di queste un cose, conto cioè... in televisione, ma se fossi dentro una stalla, no? Vabbè, ma non lo perché so, ci devo andare dentro una stalla, spiegami, ma scusa. No, faccio per dire, per essere empatico con questo mondo di ambientalismo, non, so, non è questo vegani, Lorenzo, di... non ho capito un attimo il fatto che siano che stirino il collo a questi conigli che tu ogni tanto coccoli. Non lo so, penso io, non lo so, ma non so, le tue maestranze, chi è che li tira il collo, le tue maestranze, i tuoi contadini, che ne so. C'è evidentemente è uno ricco, cioè, Lorenzo. C'è un signore che... Un contadino, sarà un tuo dipendente, un tuo famiglio, come si diceva una volta. Si diceva famiglia una volta. Sì, sì, terribile. Diceva anche Totò, il tuo famiglio, stupendo. Al Medioevo, probabilmente. Quando sono piccoli bisogna dare il latte con i chicchi di riso. Ai conigli, ai conigli, sì. Ai conigli. Poi dopo c'è il mangime normale. Sì. Va bene, ciao. Ciao. La cosa... Sì, dimmi. La cosa importante è che possono dare sia affetto, sia sfamare. Sì, no, ma io sono d'accordo con te, viva il coniglio vivo, lo dico da giorni ormai, perché è stupendo, meraviglioso da vedere, non credo da coccolare, perché non so, boh, io non lo regalerei a mio figlio un coniglio, mentre il gatto sì, glielo ho regalato. Mia figlia l'ha ricevuto invece, sì. Il coniglio? Sì, per un periodo ha avuto un coniglio, sì. Ha avuto un coniglio? Un coniglietto, sì. Un coniglietto, vabbè, ma non è strana come cosa. Un puzzo c'era in casa. Sì, una puzza tremenda. Cosa terribile. Si può dire questo ancora? Sì, no? Si può dire, ancora si può dire, sì. Ancora c'era si può un dire. Puzzo di merda che non avevi idea proprio. Infatti sì. Ho detto a mia ex moglie, ma perché regali? Coniglietto la bambina. Dico, vabbè, coniglietto la bambina. Però c'era una puzza incredibile. Poi io rispetto chi... Infatti, certo però c'era anche... una puzza di merda. Però c'era una puzza di merda. Ma è incredibile. Ma è una roba che sembrava che tu pensa che oggi una di quelle persone che mi attaccano... Non so se si può dire ancora, però questo è un dato oggettivo. Sì, si può dire. E io non mangio i conigli. Non so se si può dire, perché sai, c'è gente molto ultra sensibile. Se tu dici che gli animali puzzano terribilmente, magari ti accusano di maltrattamento nei confronti. Ma io ho avuto animali, però mi ricordo il mio cane. Ti potrebbero accusare di maltrattamento. Ma non è vero, ma è un atto oggettivo. Marco da Udine, dai, Marco. Alcuni puzzano. Dimmi, Marco, dimmi. No, volevo dirvi che un presepe o varie cose, non dobbiamo modificare la nostra vita, ma fondamentalmente, perché secondo me questi qua sono quattro tipistelli tifosi da stadio che sì, non sono, ho visto tante trasmissioni in cui dici quattro delinquenti ubriaconi, questi estremisti. Sì, sono quattro coglioni che vanno e che ammazzano, cioè gli hanno dato dei professionisti. Sentivo il generale Jean che diceva questi sono dei professionisti, cioè solo, cioè in una stanza chiusa con 1500 persone inermi, sì, che non se l'aspettano ad un concerto, e tu sei con un Kalashnikov, anche mia figlia di 10 anni riesce a ammazzare qualcuno. Sì, sì, può darsi. Non so, cioè, prendiamo per quello che è, sono quattro teppistelli. Sì, bisogna vedere chi li manda, naturalmente, no? Cioè, ho capito, questi qua... beh, lì, vabbè, ma qui, come si dice, no? Cerchiamo i soldi e capiamo da dove vengono, però non è che dobbiamo modificare tutte le nostre abitudini. No, ma infatti non bisogna, secondo me non bisogna modificare nulla. Il vescovo di Padova, adesso faccio riascoltare, che dice quella roba lì, sul fatto che dobbiamo... lì, è una roba ridicola, io me ne fotto delle tradizioni, però uno che dice per motivi di sicurezza dobbiamo cambiare le nostre tradizioni, francamente mi fa ridere. Sì, però... No, però è curioso... A proposito di tradizioni, però, io la penso esattamente come Crozza ieri sera, Crozza sul Natale. Crozza sul Natale, stupendo, meraviglioso. C'era gente fuori dalla scuola che gridava: non riusciranno a cambiarci la nostra tradizione del Natale. Scusa Giovanni, qual è la nostra tradizione del Natale? No, perché io a Natale vedo solo gente isterica che compra regali come dei forsennati, gente che mangia 82 portate, si riempie di frutta secca, gioca a tombola fino alle 8 di sera, per poi ricominciare a mangiare gli avanzi, il tutto circondato da parenti che tendenzialmente odia. Vorrei ricordare a Salvini e a tutti che per rivivere un evento accaduto in Palestina 2000 anni fa, ci montiamo in casa un abete che cresce in Trentino Alto Adige, ci facciamo riportare i regali da un vecchio ciccione che vive in Lapponia vestito dalla Coca-Cola. Che minchia di tradizioni stiamo parlando! Miserabile, io se vengo lì, bastano 30 secondi che ti polverizzo con il mio genio. Pezzo di merda! Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Luciani, io prego per te, ti prego. Se c'è un'occasione che ti fa meditare, che ti fa svestare solo per 5 minuti e pregare, dici: ma Signore, veramente esisti tu? Fallo per 5 minuti solo. Vedi se il Signore ti parla. Cruciani, a te ritira, perché te sempre parli con gli stesso. Cruciani, ciao. Ci sta scrivendo un sacco di gente che dice non è vero che il coniglio si ammazza in quel modo, cioè tirando il collo, ma in realtà l'ascoltatore di prima che ha chiamato non lo sapeva, ha immaginato che il suo famiglio, il suo contadino gli tirasse il collo al coniglio per ammazzarlo. In realtà non è così, sembra, da un sacco di racconti che ci fanno, non sembra, però non lo so, magari alle galline si tira il collo. Ma ho un appuntamento telefonico con un signore dopo, un grande allevatore di conigli. No, un grandissimo allevatore di conigli che mi ha scritto in questi giorni. Anche. Un tale Luigi. Sono fissato con i conigli. Ma scusa, ma conigli. Oh, sto facendo una controcampagna su, sugli animalisti. Ma certo, ma tu non capisci una sega. Ma che vuoi? Niente. Mamma mia. Siamo ad alti livelli qua, Allora, è la signora Rivelli quella? No, è la pezzo pane. Allora, ci sono alcuni alcuni divertenti, bravissimi disegnatori che si chiamano Vignette Sataniche Production, che mi hanno mandato delle vignette molto divertenti e non gliene frega niente a loro della... no, di offendere qualcuno. Ci sono due signori che parlano, ma che fa Mohamed? Un signore che si chiama Mohamed, che è vestito con tritolo, no? Cioè con la mezzaluna, vestito a forma di mezzaluna, con tritolo messo qui come cintura. Bisogna capirlo, non gli piace la bellezza, distrugge le opere d'arte, non può ascoltare la musica, nasconde le donne, ha letture limitate, non gli resta che farsi esplodere. L'ho trovata geniale. poi un altro con una specie di Maometto di islamico, con il turbante, con l'orecchio che fa Pinocchio, no? L'orecchio lungo. L'Islam non c'entra, il naso lungo, no, l'orecchio, che è l'orecchio, perché ho detto l'orecchio? Naso lungo, l'Islam non c'entra nulla con il terrorismo islamico. Nella cultura islamica la donna ha gli stessi diritti dell'uomo. Noi islamici siamo per la libertà di culto e non abbiamo nessun problema con gli apostati. Nel Corano non esiste nessun versetto che inciti all'annientamento fisico dei miscredenti e gli infedeli. E il naso che si allunga alla Pinocchio, eh? Vabbè, dai. Franco da Roma, Franco. Poi Gennaro, vai Franco. Pronto? Dimmi, buonasera. Franco, dimmi, dimmi. Senti, niente, tempo fa, c'è stata, qualche anno fa, c'è stata una conferenza in Turchia tra le varie confessioni, no? E ci fu un imam, credo. Un imam, che ha fatto? Che ha detto questo imam? Che noi siamo rinunciatari e che ci conquisteranno. Sì, allora vabbè, io stavo pensando un'altra cosa, no? Stavo pensando un'altra cosa. Se uno Stato dichiara guerra a un altro Stato, quell'altro Stato giustamente si difende, no? E a noi chi ci ha dichiarato guerra? Non ce l'ha dichiarata nessuno, appunto. Però se questi furbescamente, invece di dichiararci guerra, vengono come immigrati, come rifugiati, come... Cioè, per lei è la stessa cosa che una dichiarazione di guerra? No, ma così non hanno perdite, noi non possiamo difenderci. Sì, ma questi chi? Cioè, ma, nel senso che... ma di chi parla, però? E di chi parla? Parenzo, sto parlando di quel problema che hanno i tuoi connazionali in Israele. Ma di cosa parla? In generale, quelli in Israele hanno il problema di Hamas, hanno il problema del terrorismo di Hamas. Hanno il problema, hanno problema di una confessione diversa. Hanno il problema di una confessione ma diversa. Ma qui di chi parla? Parla di io cosa parla? Del Parenzo. Califfo? Di chi parla? È un disastro per l'umanità. Della religione, ho capito. La religione in generale, benissimo. Sto dicendo, no, se uno Stato invece di dichiararci guerra ci invade con i profughi, con gli immigrati... Ma con qual è lo Stato che ci sta invadendo? Chi è? Lo Stato che si è dichiarato Stato adesso, l'ISIS, che ne so. Allora, i profughi non vengono solo dalla... Vabbè, ma mettersi a discutere con ma questo. Che ne sappiamo? Ma che li conosci tu? Ci metti la mano sul fuoco? Lui sta dicendo che l'invasione è come una dichiarazione di guerra. Ma la chiama... guerra l'hanno già dichiarata, ma non con i migranti che vengono qui. Non hanno dichiarato guerra, vengono... Facendo gli attentati a Parigi. Lo fai parlare un attimo. Quando si saranno organizzati, ci faranno vedere... Dovremmo vivere con Israele. Avendo paura di uscire da casa, a me lo dice, certo che lo so, a me lo dice. Vabbè, Gennaro Caserta, ciao, ho capito benissimo, Franco. Gennaro Caserta, vai. Gennaro. Ciao Giuseppe, ciao. Dimmi. Abbassa la radio, Gennaro, abbassa la radio. No, non ce l'ho, amico mio, però si sente tutto il rimbombo, dai. Appunto. Ce lo spenda. Ma non è vero, non è possibile, perché si sente un ritorno, dai. Giuseppe, ce lo spenda. Vabbè, Gennaro, dai. Volevo chiederti una cosa, no, siccome non so se hai appreso la notizia di quelli lì. Gennaro, si sente il ritorno, dai, non la posso sentire sta cosa. Enzo da Napoli, dai, è inascoltabile, richiamatelo, dai, Enzo. Pronto? Dimmi. Ciao, senti, allora io chiamavo a proposito dei vegani. Sì. Ok, allora, giusto per fare un aggiornamento, io ripeto, ho avuto un allevamento in campagna, finché un giorno mi sono convinto di fare il vegetariano, il vegano, diciamo così. E non ho capito la stanzata che ho fatto. E la vorrei spiegare un po' a tutti quanti per il concetto molto Cioè semplice. Tu eri vegetariano e ti sei pentito? Cioè, ma no, ho capito proprio la stanzata che ho fatto. Sì. Allora, qual è il punto? È questo qua. Allora, noi partiamo con un concetto molto semplice, che la vita mangia la vita, quello che pochi sanno. La allora? Vita mangia la vita. Che cos'è? Allora. Sì, però amico mio, non possiamo fare un trattato qui. No, è una cosa molto semplice. La vita mangia la vita, allora, siamo male. Spiego subito. Ma noi mangiamo le piante solo perché non sentiamo le loro strille, il loro urlo, tutto ciò che nasce è vita. Allora anche l'animale fa parte del nostro pasto, perché solo perché siamo su più potenti. Un tempo eravamo noi il pasto dei dinosauri. Cioè, sti vegani, cioè, se loro lo fanno solo per una questione che fa male, beh, i grassi animali, posso anche essere d'accordo, che la verdura fa dimagrire, posso essere d'accordo, ma che noi vogliamo salvare la vita a polli, a conigli, che tra l'altro poi non nascerebbero nemmeno se nessuno li mangiasse, perché tu vedi quasi vuole eccetera. Ma un'altra cosa, noi avevamo, una volta mangiavamo i piccioni appena nati i piccioni di Colombo, sì, sempre roba allora... per qualcuno, niente, a oggi non mangiando più piccioni, abbiamo quasi 2000 piccioni che mangiano tutto in campagna. Dunque? Mangiano tutto. Allora, chi mangiano? I piccioni, gli animali, degli animalisti, i cieli che sono pieni di uccelli come una volta. Sì, no, ma poi i piccioni ha toccato una categoria giusta, che i piccioni sono quel classico uccello che sta sulle scatole ai più, perché poi sei là, stai contemplando l'uomo di Milano, lo stai guardando con la fidanzata, stai per baciarla, lo guardi, guardi la Madonnina, e improvvisamente nel momento del bacio, boom, ti arriva il guano in testa. Ma quante volte vi è capitato? A me una volta, ad esempio, è capitato che stavo lì al Duomo di Milano e ti hanno scagazzato in testa. Un grande sterminatore di piccioni, sai chi è Cruciani? Chi è? È stato Cacciari. Cioè il sindaco di Venezia anni fa propose di, perché stavano lordando, l'hanno massacrato. Lo hanno massacrato. Certo, io mi ricordo, se vai a vedere su internet, il più grande sterminatore di piccioni, giustamente peraltro, fu il sindaco di Venezia Cacciari, che dove pose, ci fu il problema lì del duo, come si chiama, della, di San Marco. Sì, sì, come no, certo. Lordato. Va bene, Marco da Frosinone, ciao Enzo. Marco, Marco ciao, Frosinone, ciao. Vai. Sì, pronto, mi senti? Vai, dimmi. Sì, senti, ti volevo dire, io ascolto da un sacco di tempo la trasmissione. Tramite il tuo stile ho capito che noi in Italia siamo indietro anni luce, perché secondo me uno sei un misto tra Howard Stern e Talk Radio di Oliver Stone, copiando questi due stili hai avuto successo, cosa vai, che negli altri paesi c'era 30 anni fa. Seconda cosa, volevo dirti, secondo me stai ai vegetariani come gli omofobi agli omosessuali, sei un vegetariano represso. Ovvero, cioè, tu in fondo, io vorrei essere vegetariano. Non hai le palle per intraprendere quella scelta. Ma no, guarda, ti, ti sbagli. Scelta etica, scelta perché tu sei vegetariano o vegano? Io sono vegetariano semplicemente per scelta etica, però. Ma qual è la scelta? Io vorrei capire la scelta, perché la cosa mi fa impazzire. Io posso capire invece. Aspetta, Marco, io potrei capire, per esempio, la scelta nutrizionale. Uno dice: vabbè, voglio non mangiare carne perché la carne mi dicono che fa venire cancro, eccetera, eccetera, che può essere pericoloso, perché per mille motivi che riguardano il proprio fisico e il proprio corpo. La cosa che non capisco è la scelta etica. La scelta etica mi fa impazzire. Mi fa impazzire questa cosa. Ok, purtroppo. Tu non ce la fai a prenderla, però. No, ma che cos'è? Qual è la scelta etica? Dimmi, gli animali che muoiono, che cosa? Semplice, io sono la dimostrazione vivente, come tutti i vegetariani che ci sono sulla faccia della terra, che si può vivere tranquillamente senza mangiare carne e le varie stronzate delle proteine animali che raccontano i vari nutrizionisti. E siccome ho un'intelligenza per capire, per comprendere e non fare del male anche gli esseri viventi che sono inferiori per intelletto, cioè gli esseri viventi sono io non procuro dolore a nessuno, cioè non ho capito, gli esseri viventi sono inferiori per intelletto, diciamo che l'uomo è raziocinio, no? Allora giusto, allora deve sfruttare questo raziocinio per comportarsi meglio degli animali, non peggio, perché gli animali ammazzano per sopravvivenza, l'uomo mangia gli animali per gusto. Guarda, dopo questa spiegazione mi hai convinto, non diventerò mai né vegetariano né vegano. Ciao. Beh, cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. La Zanzara. Caro David, ti ho fatto finire sulla copertina di un fantastico settimanale. Cioè, ci sei anche tu con la tua foto. Tua, sulla prima pagina di un settimanale, dai microfoni della Zanzara, la proposta di riaprire le case chiuse. Non è particolarmente nuova come cosa, è una proposta che portiamo avanti, in particolare io, perché tu, figurati, cioè, io l'ho detto. Portiamo avanti da tempo. Ho detto via la prostituzione dalle strade. E ci sei tu in prima pagina di questo preziosissimo settimanale. Io? Cronaca nera. Cronaca vera. Ma come si permette? Settimanale. La mia foto. Settimanale. Ma è una bella foto almeno. È la foto mia e tua, eccetera. Settimanale di fatti e attualità. Siamo accanto a un servizio, due bambini uccisi e quattro violentati nello stesso palazzo. L'imprenditore scomparso sarebbe stato bruciato in un forno e i suoi resti portati via con un camion rubato. Ti giuro, cronaca vera, stupendo. Poi, qui gli orchi la fanno da padroni. Si fingevano cartomanti per spillare soldi a donne deboli e fragili. Poi c'è, dai microfoni della Zanzara, la proposta di riaprire le case chiuse. A proposito di mostri, cioè, no, noi abbiamo la foto insieme a Veronica, quella che avrebbe ucciso il figlio, e l'imprenditore scomparso che sarebbe stato bruciato in un forno, i suoi resti portati via con un camion rubato, due bambini uccisi e quattro violentati nello stesso palazzo, eccetera eccetera. Poi accanto, era una gran compagnia, stupendo, però, meraviglioso, accanto all'articolo nostro c'è un editoriale di Donato Davarese, sesso a pagamento, poche semplici norme, in cui viene ricordata l'esperienza svizzera, che dopo ovviamente spiegheremo nei dettagli, i misteri del sesso a cura del professor Dell'Alba. Chi è Dell'Alba? Non lo so, un professore che viene. Ma roba vergognosa, ma come, soprattutto, si aspetta, ci sono, la mia foto? Ma ci sono delle cose stupende, delle lettere meravigliose, secondo me tutte finte. Ma però, questo mi danneggia, però. Ma no, come ti danneggia? Ma mi danneggia una foto così con te sulle, fuori della prostituzione, mi danneggia. Cioè, beh, cita per danni, signori di cronaca vera, citali per ma danni. Ma non lo so, ma no, mi danneggia il fatto di avere questa foto. No, ma poi. Head out on the highway, looking for adventure. Angelo da Roma, vai Angelo. Allora, intanto questo fatto dei vegetali sta veramente rotto i coglioni, non ce ne non ne possiamo. E vabbè ragazzi, fra poco usciremo, continua, quando ci sono dei tormentoni, ci sono dei tormentoni, dai, no, su, capito, Angelo. Capito, però continuo. No, ma io volevo farti invece una riflessione seria. Questa delle case chiuse non è un punto così godereccio per fare i trafficanti. Ma chi è l'ha mai detto? Serissimo. Chi l'ha mai detto che non è serio, un fatto serissimo, perché ti spiego, scusa se ti interrompo. Allora, noi dobbiamo combattere la mafia, dobbiamo combattere la criminalità, sì, questo. Che non è che viene eliminata del tutto con le case chiuse, quella che si occupa di prostituzione, però va bene, un passo avanti. Ti togli tanto, come togli tanto con la cannabis legale, ti togli tanto. Certo, assolutamente. Ovviamente legalizzata, controllata, e lo Stato avrebbe anche più introiti fiscali, come succede. Vabbè, ma questo lo sappiamo, andiamo avanti, però sappiamo, Angelo, è una vita che facciamo sto discorso, arrivi tu da Roma, Angelo da Roma, a raccontarci della legalizzazione delle case chiuse, dai. Facciamolo in maniera seria. Facciamo delle petizioni, tu che sei uno con ma i Angelo, scusa, abbi pazienza, ma tu allora sei poco, informato. Ma sei poco informato, è una vita che facciamo queste cose qui, è una vita. E concretamente come facciamo? Ma concretamente abbiamo fatto, io ho firmato vari referendum della Lega, ma io l'avrei firmato anche se fossero di Rifondazione Comunista, partecipazione a convegni. Il problema è il Vaticano, qual è il problema? Anche, perché non arriveremo mai a fare. La politica, il Vaticano, una serie di cose. Mi fa incazzare questa cosa, sì. A me non mi fa incazzare, ma vado ai matti per questa cosa qua della almeno tu cazzo, almeno tu. Ma mi immagino, però scusa, ascolti la Zanzara da poco, evidentemente non è un delitto, non è ancora un reato, non è stato ancora introdotto nel codice penale, però è una vita che mi ha incuriosito molto, perché non ne sento parlare spesso. Ma noi è una vita che parliamo, c'è stato un periodo per cui ci hanno accusato, adesso parliamo troppo di conigli, prima parlate troppo del zoccolo, e poi quelli che dicono che adesso parliamo troppo di conigli dicono perché non parlate di zoccolo, ma scusa, eri prima a dire che parliamo poco di troppo di zoccolo, guarda che è pazzesca sta cosa. Hai ragione. Allora Fernando Milano, ciao, c'è un aggiornamento, dimmi, c'è una breaking news? No, non c'è ancora, dai, ma la breaking news però non si annuncia, la si manda in onda e basta. Fernando Milano, dopo Fernando. Sì, pronto, Parenzo. Dimmi, Fernando. Io volevo solo dire una cosa, basta veramente con i conigli, basta con i vegani, basta con i vegetariani, perché veramente mi sto scazzando, tutte le sere, io vi ascolto, ma mi sto stancando. Adesso arriva Natale. Sì. Potreste fare una bella cosa voi due, Cruciani e Parenzo. Andate a San Vittore e fate un po' di sesso orale, che almeno li fate divertire. Ma un non ho capito questa cosa. Eh? Tu dici basta i conigli e poi dici questa puttanata, cioè dovremmo andare a San Vittore a che fare, scusa, ad accontentare i carcerati? Sì, proprio così, almeno li fate felici. No, per guarda, Natale, allora, al di là della tua frase ridicola, Fernando, però c'è da dire una cosa, che qualcuno vuole prendere l'iniziativa, Parenzo, ti ricordi, per fare sesso in carcere, ed è stato ridicolizzato. Beh, è una vecchia iniziativa, una vecchia idea, peraltro, cioè, anche dei radicali. Cominciate voi. Ma facci tu, Fernando, che mi dà che sei capace più di noi. Che ne so. Vabbè, ciao Fernando, ciao. Amici miei, vi presento un personaggio incredibile che conosco da un po' di tempo dal punto di vista televisivo e dal punto di vista della sua produzione libraria e anche del suo mestiere. Devo dire, lo guardavo sempre da lontano. Mi ha incuriosito negli ultimi giorni capire cosa ne pensa sia della questione del coniglio che di altre cose, Parenzo. È un dietologo diventato famoso, ha avuto pure delle cose controverse, poi l'ha sempre vinte a petto in fuori. Si chiama Alberico Lemme. Buonasera, dottor Lemme. Buonasera a tutti. Buonasera. Ah, certo. Come stai? Ti do del tuo. Alberico, dai, diamoci l'emme. No, non è l'emme, non è affatto. Sto sempre meglio. Sei sempre meglio in che senso, scusa? Che sto sempre meglio. Ah, così tu stai sempre meglio in generale. Esatto. Stai sempre meglio. 5 minuti sta ancora meglio perché non vi sento più a voi due. Ma come no? Ma è forte. Ma, scusami, Alberico, ma tu a proposito, tu fino a quando vivrai? Cioè, puoi fare una previsione? Siccome sei dietologo, sei uno che ti intende di queste cose, eccetera, ti nutri sicuramente bene secondo tutti i crismi possibili, immaginabili. Cioè, meglio di Berlusconi, sicuramente, che dice che vuole campare fino a non so quanti anni. Tu puoi dare una previsione? Io camperò fino sicuramente. No. No. Sono immortale. No, dai, Alberico, veramente. Pensi di essere immortale sul serio? Sì, sì. Immortale. Perché mi nutro bene. E dunque potresti campare fino a quando? 100, 150? A minimo 120 anni, minimo. Minimo 120, capito? E quanti anni ha adesso, professore? 58. 58. Allora, caro Alberico Lemme, filosofia alimentare, caro Parenzo, le sue diete sono state, come dire, pane quotidiano, perché lui dice che il pane in realtà si può... Ah no, pane no, forse, il pane no. Sì, si può mangiare anche il pane. Si può mangiare pure il pane. Innanzitutto gli spaghetti a colazione, no? Questo è fondamentale, o sbaglio? Spaghetti a colazione, cipolla a colazione, ma adesso faccio molto di più. Bomboloni alla crema a colazione si dimagrisce alla grande. No, dai, questo però... Beh sì, perché il fegato... Questo l'ho sentito anch'io. Perché il fritto va mangiato a colazione perché il fegato è più in grado di digerirlo. No, però spiegami questa cosa dei bomboloni alla crema a colazione, perché qui parte la denuncia qua. Il fritto sai? In generale. Parte la denuncia. Dimmi questa cosa dei bomboloni alla crema, dai. Allora, per capire questo mio metodo, prima bisogna dire quello che fa ingrassare e quello che fa dimagrire. Sì, rapidamente, vai. Quello che fa ingrassare sono i pomodori, l'insalata, le verdure, l'aceto, il sale, le carote, la frutta e il latte. Sì. Quello che fa che... Scusa, frutta e verdura fanno ingrassare? Sì, si fanno. Cosa mangia l'elefante? Che cosa mangia la pecora? Che mangia? Erbivoro l'elefante, mai visto un elefante magro? Cioè dunque i vegani dovrebbero essere tutti ciccioni da questo punto di vista? No, dovrebbe essere ciccioni, però se ci sono vegani ciccioni io faccio anche il percorso vegano per far dimagrire i vegani. Addirittura? Cioè i vegani vengono da te e dici io sono ciccione, tu dici per forza amico mio sei vegano. E poi gli faccio un'alimentazione vegana e dimagriscono. Beh, stupendo. Allora tu ricapitoliamo, allora andiamo là. Queste sono le cose che fanno ingrassare, invece? Quello che aiuta a dimagrire, che fa dimagrire veramente, è l'olio, è il burro e il grasso. No, beh, ed è spiegato scientificamente. Ragazzi, questo. Olio, burro e grasso, ma a te ti denuncerà un sacco di gente. Quante denunce hai? Quante denunce hai, Alberico? A me faccio curriculum, fanno curriculum le denunce. Olio, burro e? E grasso fanno dimagrire. E abbassano anche il colesterolo. Vabbè, ma siamo veramente al ma top lei, assoluto. Dietologo, come Cruciani è un moderato. Cioè... No, come Cruciani è un ingegnere navale, guarda forse. L'ho scritto anche sul mio libro, l'uomo che sussurrava i ciccioni. L'uomo? L'uomo che sussurrava i ciccioni, l'ho pubblicato. Cioè, come Bisignani, lui è il Bisignani della dietologia. Lui che ha pubblicato il libro Bisignani, l'uomo che sussurra i potenti. Lui è l'uomo che sussurra i ciccioni, esatto. I bombolotti alla crema a colazione. Riprendiamo da qua, cari amici della Zanzara, popolo della radio. Ormai è tutto degradato. La Zanzara. Ma come ti piace parlare di sesso a te? Io già te vedo che torni a casa e ti fai la seghetta. Ma io non lo vedo. Allora ragazzi, qui c'è un signore che da tempo propugna delle cose sensazionali, delle cose che rivoluzionarie, Parenzo direi, no? Il dottor Alberico Lemme, dietologo, farmacista in realtà, però specializzatosi in dietologia, il quale ci ha appena detto che cosa fa ingrassare e che cosa non fa ingrassare. Allora, siccome la cosa è abbastanza sorprendente, prima voglio chiedere una cosa a Lemme, prima di passare ai bomboloni alla crema, che secondo lui mangiati la mattina, naturalmente, credo, no? Professor Lemme, che dice? Certo. Mattina, non fanno ingrassare. Allora, che cosa pensa lei dei ciccioni? Cioè, un po' li disprezza lei, cioè, quando viene da lei uno ciccione. Quando viene un ciccione, dico subito, buonasera ciccione, ben arrivato. Cioè, un po' bisogna disprezzarli per... No, li metto di fronte alla realtà, poi gli faccio una foto, proietto la foto e gli faccio vedere quanto è grasso. Sì. E se ha ancora il coraggio di andare in giro in quelle condizioni. Ah, così proprio, ma non ti fai schifo? Che cosa dice? Non dice così, non ti fai schifo. Ma non si vergogna se era in quelle condizioni. Come fa a fidanzarsi? Come fa a mettere su famiglia? Come fa a cuccare? Ma è la cosa migliore. Certo, uno deve dire così. Scusa, come per esempio a trombare, a fare un ciccione che fa l'amore, come se non è mai impossibile. Come fa a trombare? Come fa? non se lo riesce neanche a vederlo. Ma l'hanno mai presa a testate lei, però, scusi, sì, l'MLM? Sì, sono venuti molti incazzatissimi, mi volevano menare, e sì, parecchie persone. Scusa Almerico, ma ti credo, scusa. Scusa, però Almerico, no, ma era il numero uno assoluto. Però il bombolotti alla crema la mattina, spiegami questa cosa qua, no, adesso, seriamente, adesso non credo, allora, che stavi scherzando, perché quando si dicono... No, io studio e ricerco sul cibo da 20 anni. Sì. Sono riuscito a mettere a punto una ricetta, pasta di crema con le uova, la farina, tutto, che produco io, cioè il bombolone che va a comprare in pasticceria, ovvio che è in grassi. Il bombolone che io faccio, sì, non sono bomboloni dietetici, è un processo una versione particolare, fanno realmente ingrassare e fanno realmente dimagrire. Cioè i bomboloni alla crema la mattina fanno dimagrire? I miei, non quelli della pasticceria. Cioè, non è un prodotto dietetico, è fatto con la farina, con le uova, con il burro. Come fanno a far dimagrire? Scusi, professor, mi spieghi un attimo questa cosa, perché è curiosa questa cosa. Bisogna valutare l'effetto biochimico del cibo. Qui la caloria è una bufala, quindi non si calca più le calorie, perché noi non bruciamo nulla, noi metabolizziamo, quindi siamo un laboratorio chimico. Perché quelli che ti dicono le calorie, tutti buffoni, retrogradi, gente. Sì, sono dei buffoni, stanno prendendo in giro il mondo. Cioè, quelli che parlano delle calorie, scusi, quando però sente parlare di calorie, lei mette mano alla pistola, cioè proprio diventa una bella. No, ma per dire, perché altrimenti non si capisce, cioè la filosofia alimentare del dottor Leme. Una mia amica mi ha appena scritto, una persona che conosco mi ha appena scritto, ho appena acceso la radio, mi ha insultata da morire quando sono andata. Una mia amica che è anche piuttosto in carne, diciamo, no? Ecco, per usare un eufemismo, dire. Ha detto, mi ha insultata, cioè è tutto ma vero. Ma è una tua amica? Ma perché? Ma che te ne frega a te se è una mia amichetta o una mia amica? Cioè, chiedo. Ma guarda che pungere le persone sul sesso, il dottor Lem fa bene. Quando un ciccione o una cicciona va ovviamente per il maschio è un po' più complicato, è una tua amichetta, no? Ho capito, dai. No, ma non sto parlando di questo adesso, male, in generale. Cioè, giustamente bisogna pungolare anche sul sesso, cioè essere ciccioni fa male al sesso, cioè come si fa a fare sesso da ciccioni, dai? Come si fa a fidanzarsi, come si fa a fare sesso, come si fa a cuccare la bella presenza di tutti noi e vogliamo essere belli, no? Sì, è certo. Allora se uno vede per strada una ciccione, dici, ma guarda come ciccione quella lì. Ma sì, e la pasta, per esempio, la pasta la mattina lei la mangia? Sì, mangio spaghetti, olio e peperoncino a colazione, è squisito. Però scusi, spaghetti insieme al bombolone no, però. Spaghetti. No, ho spaghetti o bombolone. Vabbè, no, ma chi è che mangia gli spaghetti la mattina? Siamo seri? No, guarda, invece questa qua è l'MLM, molto... ma se no... Sì. No, Alberico... mangia la spaghetti la mattina. No, ma ha ragione, guarda che se uno si abitua, in realtà ha ragione Alberico. Cioè, è veramente fondamentale questa cosa qua. Se guardate, ai vostri ascoltatori, loro possono perdere un chilo così in due giorni. Se si fanno un bel piatto di spaghetti a colazione, poi? Una frittata con cipolle e noci a pranzo, poi? È una bella bistecca di... oppure un coniglio a cena. Oh, fermo, siamo lì. Allora, dunque, la dieta, volete perdere quanto in quanti giorni? Un chilo e due in due giorni. Un chilo e due in due giorni. Partiamo la mattina con un bel piatto di spaghetti. Spaghetti, olio e peperoncino. Bene. Frittata con cipolle e noci a pranzo e un coniglio, ma intero, non metà, a cena. Oh, un coniglio intero. Tutto, mi raccomando, senza sale, perché il sale non trattiene i liquidi. E il sale è un casino, infatti. E senza pane, ovviamente, pure, no? No, così. Quello così. Spaghetti, spiegate, cipolle. Sì. E tutto senza sale. Senza sale, perché il sale ingrassa. È un casino. Dica cosa sa, allora, scusa. Vabbè, ho capito, qualcosa bisogna sacrificare, Parenzo, perché sennò altrimenti... Come cosa sa? Sa di coniglio e di cipolle, sa di uova. Oh, andiamo al coniglio, ma le pare normale che vogliono vietare il coniglio dalla tavola? Diciamo qualcosa a questo. Il coniglio è quell'animale più dimagrante che esiste. Oh, benissimo. Perché? Perché? Mi spieghi bene. Perché? Perché va a stimolare, quando noi mangiamo il coniglio, le proteine, sì, vanno a stimolare la produzione di adrenalina. Sì. Quindi l'adrenalina ha un'azione dimagrante sulle cellule adipose. È un effetto proprio biochimico. E dunque, viva il coniglio, viva il coniglio. Ma un vegano, secondo me, un vegano estremista, lei come lo definisce? Un cretino? Come lo definisce? No, lo definisco vegano, ma lo faccio dimagrire seguendo la sua filosofia vegana. Non è che gli do il coniglio al vegano. Sì, vegano, ma lei quando si presenta uno, mi dica la verità, quando si presenta uno davanti a lei, dice io sono vegano. Gli dico che è una dieta non molto equilibrata, però se lui vuol seguire il suo percorso vegano, io lo faccio dimagrire con il suo percorso vegano. Però un vegano ingrassa, secondo lei, è destinato ad ingrassare per forza? Non è che è destinato a ingrassare, sono venuti parecchi vegani che sono grassi. Perché lei dice, per le cose che mangiano sono grassi. Comunque, questa mia amica mi dice che si scopa anche da ciccioni e siamo degli stronzi. Sì, vabbè, d'accordo, certo che si scopa da ciccioni, nessuno l'ha mai messo in dubbio. Però, amica mia, con più difficoltà. Con più difficoltà, non c'è dubbio. Senta, ma lei che opinione ha delle donne, dottor Lemme? Ma meglio che non glielo dica, perché sono delle donne io. Perché? Io quando entro una donna mi studio, ma lei è una gran testa di donna. Cioè, invece di dire testa di cazzo? Esatto, perché dipende dal tono in cui tu lo dici, no? Io non ti permetterei mai di dire alla donna testa di cazzo. No, però, però dice, lei è una gran testa di... Ma perché, come mai? Che cosa le ispirano le donne? Non ho capito. Cioè, perché ha questo sentimento così di avversione? Non ho di avversione, perché hanno un cervello emotivo. Non sono razionali. Io ho scoperto e studiato che la donna non conosce e non applica il pensiero logico. Cioè? Cioè, però fa un discorso logico a una donna. Pazzo questo. Non riesce. Cioè, secondo la logica le donne. Cioè, non riesci con una donna a fare un discorso. Che non conosco il pensiero logico. Cioè, sono mezze matte, cioè, se sta dicendo. Cioè, sono squilibrate. Sono emotive, hanno un cervello emotivo. No, ma dica quello che pensa. Professore, qui bisogna essere chiari, non è che bisogna tanto menarsela. Secondo lei sono esseri inferiori, diciamola tutta. Diciamolo, sono esseri inferiori. Esseri hanno inferiori. Un cervello emotivo. Cioè, l'uomo è su un altro livello, diciamo. Certo, uno. Tra maschi si capisce subito, riuscite mai a parlare e capisco una donna? Beh, ma è vero, da questo punto di vista è molto però, Parenzo, no, però scusi professore, noi già abbiamo alle costole Vaticano, ISIS, animalisti, vegani, napoletani, Bari e Bariso, cioè voglio dire, adesso non possiamo aggiungere pure l'universo femminile. Milioni di donne italiane, milioni credo, no? Sì, milioni di donne italiane. Non è proprio, no? I ciccioni da oggi. Esatto. Cioè, voglio dire, che scopano male. Vabbè, questo lo dici tu. La fila di quelli che come dire, non hanno in simpatia questo prodotto editorial radiofonico. Lei ci mette il carico da 90, l'M mio. Un tizio che si chiama Nicola. Ma lei è sposato sull'M? No, per chiedere. È sposato lei? Sarà, sì, perché... sì, sono. È sposato. Sua moglie l'aspetta a casa col bastone nodoso. Io non ho capito, ma sua moglie lei la considera una deficiente in pratica? Mi pare di sì, l'ha detto. Io ho un maschio, ho come figlio un maschio e una femmina. Ho allevato secondo i carismi meridionali, perché sono abruzzese. Cioè? Cioè il maschio viene valutato da un punto di vista, la donna da un altro. Mi spieghi in che senso, scusa? Questo ci porta in un terreno ancora più accidentato. No, prego, spiegami, Alberico. Adesso io alterno in lei al tuo, non sono abituato. Però... Alberico, spiegami questa cosa qua. Cioè, il maschio l'hai educato come? Cioè, il maschio può studiare, la donna no? Non mi dica questo. No, studiano tutte e due, sono tutte e due. E allora qual è il punto? Non è da un punto di vista culturale. E da che punto di vista? Mentale. Cioè? Perché il maschio è razionale, la donna è emotiva. Quindi la donna è emotiva. Certo, quella è la differenza, no? Cioè. A parte le battute, inferiorità e superiorità. Beh, no, battute, realmente la donna ha un cervello emotivo. E quindi, siccome l'emotività blocca l'evoluzione dell'essere umano. Ecco, appunto, blocca. Cioè, non è meno evoluta, sta dicendo, è pazzesco. Non c'era comunque, bisogno c'è anche un di signore questo. Scriveranno le femministe, scriveranno, cioè guarda che è incredibile. Aspetta, Nicola, un tale Nicola, col dottor Lemo ho perso 35 kg in 3 mesi, se volete chiamarmi eccetera. Mi raccomando, professor, sennò qui Alberi, sennò qui ci andiamo di mezzo pure noi, perché già ma guarda che io queste cose qui a parte l'ho scritto sul mio libro, ho fatto un capitolo dedicato alle donne, ho scritto che le donne sono esseri inferiori non come mentalità ma perché hanno un cervello emotivo, cioè hanno, ma anche un cervelletto, possiamo dirlo, anche un cervello piccolo, no? Ma che è più piccolo del maschio lo saranno tutti, no? Ma come più piccolo del maschio? C'hanno un cervello più piccolo, sul serio? Sì. Cioè, ma secondo lei sono adatte a fare certi lavori e certi lavori no, le donne? Per esempio, cioè, che ne so, bisognerebbe anche mettere un freno a questa cosa qua che le donne possono fare. No, io metto il freno, e siamo in libertà, in democrazia ancora per poco, uno può fare quel che vuole, ma devono dimostrare sul campo che di valere uguale o superiore ai maschi. In quali settori? In tutti i settori. Ma per esempio, un settore dove secondo lei sono proprio inadatte, qual è? Non si può dire sta roba, non è possibile. Un settore in cui sono inadatte. Faccio una piccola riflessione. Perché mondo è mondo. Sì. Non c'è stata mai una società che è stata portata dall'evoluzione femminile avanti. Cioè il mondo è stato portato avanti dagli uomini, lei dice. È stato fatto progredire dagli uomini. Tutto quello che abbiamo scoperto è sempre opera del maschio. Vabbè, insomma, c'è qualche scienziato donna, c'è stato. Comunque, vabbè. Qualche scienziato donna, sì, va bene. Ma chi ha portato avanti l'evoluzione maschile, l'evoluzione della cultura e tutto quello che c'è? Chi ha inventato il motore? Un maschio, d'accordo. Ma che c'entra? Comunque, una mia amica mi ha detto che da lei andava anche la signora Romina Power, è vero? Sì. Ma quanti i clienti più famosi che ha avuto? Non dica che pure Berlusconi si è rivolto a lei. Sì, esatto. Ha perso 6 kg. Ah, 6 kg Berlusconi. Anche. Poi chi c'è? Adesso ultimamente sta avendo Briatore. Ha perso 15 kg. Briatore 15 kg? Poi? La Paola Perego. Pure. Quanto? Lucio Presto. Vabbè, sì, effettivamente. Sembra un po' dimagrito, signor Presta. Quanto ha fatto dimagrire? 30 kg, Lucio Presta. 30 kg. Non so se è contento, però, questa lista di persone. Le do che lei dice che sono da lei, però, per carità. Poi? Brignani è venuto da me. Ma Brignani, che Brignano? Brignano, il comico. Il comico. Poi quanto ha perso Brignano? Ha perso 12 kg. 12 kg. La Perego? Perego ne ha perso 8. 8 kg, un po' meno del signor Presta, eh? Briatore 15, 6 kg, quell'altro, poi altri personaggi famosi? Non posso dire tutte. Posso dire tutto, ha detto 10, ha detto. Non li posso dire tutti, una cosa incredibile. Vabbè, comunque, qual è il lavoro a cui le donne sono più inadatte? Cioè, lei non affiderebbe mai una donna a che cosa? No, io affido tutte le donne, ma voglio fare un discorso, tra virgolette, serio. Serio, facciamo una riflessione un po' a tutti. Sì. Che nel momento in cui facciamo un discorso, chi ha inventato il motore a scoppio, l'ha inventato un maschio. Sì. Chi ha inventato il telefono, l'ha inventato un maschio. Chi ha inventato tutte quelle cose che le donne usano? Sì. Il ferro da stiro, la lavatrice, la lavastoviglie e così via. Un maschio. Sì. Perché la donna rompe le palle al marito e dice inventami qua, e lui inventava. La donna ha mai fatto nulla. Mi sto spiegando. Sì, la donna non ha mai fatto nulla, è molto chiaro. Non ha mai inventato nulla. Non ha mai inventato niente. Ha un essere inferiore, dai, c'è poco da lei dice un essere. No, glielo dico l'ultima. Il lavoro più antico del mondo, qual è? La prostituzione. Sì. No? Anche lì le abbiamo fottuti. Vanno di più i trans che le femmine. Scusi, professore, le posso proprio sommessamente far notare che l'amministratore delegato di questa radio è donna? Un grande sotto. È un problema nostro. Ma come si permette? Ma come si permette? Ma è una roba incredibile. Però scusa, ma ti pare? Cioè, dove hanno posti di potere le donne creano problemi, dice lei? Ma penso proprio di sì. No, prima però, sviando un po' da questo argomento, no? C'è una cosa che ha detto il professor Lemme che mi pare fondamentale, che anzi il caro Alberico, adesso Alberico io andrò subito ad Alberico, professor Lemme, domani mattina vengo da lei in studio, mi faccio visitare, no, non ho bisogno, per fortuna non ho bisogno, però così, voglio fare visitare per capire se c'è qualcosa di strano. Allora, c'è una cosa fondamentale che ha detto, cioè anche nella prostituzione li abbiamo fottuti, questo mi pare un ragionamento bellissimo, straordinario, anche originale, cioè lui dice anche nella prostituzione alla fine hanno vinto gli uomini, siccome sono le donne che si prostituivano storicamente, lui dice i maschi hanno vinto pure là, perché adesso vanno di moda quelli col pisello, esatto, gli amici trans. Vabbè, prima di una lunga serie di puntate sarà questa, professor Lemme, viva! Salute. Viva Lemme, viva Lemme! A presto, viva. Siete criminali! Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta La Zanzara. Premesso che il collo si tira ai polli o alle papere, il coniglio si uccide annoccandolo, cioè dandogli un colpo deciso sulla nuca. Muore che sembra stia dormendo, e buon appetito a tutti. Buono il coniglio fritto alla fiorentina, mamma mia ragazzi, ma sanno una sega gli animalisti. Non mollare i cruciani, mi raccomando. Parenzo, parlando del coniglio, hai detto la parola puzzo di merda in diretta. Non si dicono queste parole, la radio della Confindustria, poi Squinzi si incazza. Beppe, mi hai frantumato il prepuzio con quel coniglio. Basta, chiamate Donato da Varese, vi prego. Beh ragazzi, io penso che possiamo anche chiudere qui la Zanzara dopo l'intervento del professor Lemme, del caro amico Lemme. Chiudiamo c'è tutto, dai. Più niente da aggiungere. Chiudiamo tutto, dai. Cioè, è impossibile aggiungere qualunque altra cosa. Esatto, cioè, credo che è il personaggio più straordinario degli ultimi mesi, forse. Mesi. No, ma tu immagini la figlia, come si sente, la moglie. No, ma io, a parte che do ragione a dottor Lemme, quasi praticamente in tutto. Purtroppo non avevo dubbi, purtroppo. E che mi chiama in diretta. Chi mi chiama in diretta? Chi è che ti chiama in diretta? Chi è? No, si sente troppo rumore, Davide, allontana quel telefono. Dai. Ah, no, l'ottimo Malcolm Pagani. Scusa Malcolm, sono in diretta alla radio. Che vuole Malcolm? Che vuole Malcolm Pagani? Aspetta che te lo passo. Alza il volume, metti la canta. Aspetta che te lo passo, eccolo qua Malcolm, eccolo qui, lo puoi sentire. Saluta Pagani, allora. Ciao Malcolm, che dici? In diretta. Un abbraccio a tutti e due. Che volevi? Che volevi? Un abbraccio. Perché no, mi ha chiamato perché gli ho chiesto io un'informazione sul weekend del 4 dicembre. Allora gli ho mandato. E lui gentilmente mi sta diretta. Ma io sono multitasking. Ma che multitasking? Che ti conosco, che non sei affatto multitasking. Lasciami salutare Pagani, che è in linea, e quindi lo salutiamo. Ma incredibile, guarda. Saluta anche tu, Marco. Digli ciao. Ma non c'è bisogno, ci salutiamo spesso. Va bene, ciao, grazie. Allora, Americo da Roma, dai, Americo, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Lorenzo. Il coniglio, ma perché non il lepre, il fagiano, il tordo, la beccaccia? Ma gli italiani devono riscoprire gli antichi sapori, Cruciani. A me lo dici. Il selvatico tira anche la barca. Lo so dove vuoi andare a finire. Lo so dove vuoi andare a finire, caro Americo. Americo, col selvatico. Americo. Il selvatico, le atmosfere di una volta. Che vuoi dire? Dimmi, che vuoi dire? Dilla tutta. Ma niente, bisogna sentire quello che l'uomo è fatto di tante cose. Non è soltanto ragione, è anche istinto. Siamo fatti di pulsazioni. Sì, ma diciamo pure che noi vogliamo crepare con il coniglio in bocca. Il vogliamo coniglio, crepare pieni di coniglio in bocca. Ma la carne, il pesce, ad esempio, questi ci propinano pesce industriale fatto da allevamento, mentre invece nei nostri fiumi, quelli di una volta, si mangiavano dei pesci allo stato naturale, selvatico, una volta facevano parte dell'alimentazione. In pratica quello che ti voglio dire è quello che tutti sanno, che l'alimentazione è abbinata anche al sesso. Quando si sento sa. Dire i vegani che scopano meglio, io con tutto il rispetto, noi siamo fatti di carne, di acqua, di proteine, grassi, carboidrati. Mangiate quello che volete, ma non venite a pontificare su una cosa che parte dal cervello. Il cervello è nutrito dalle proteine, dai zuccheri e dai grassi. Il dottore che ha parlato prima, io dopo aver sentito quel dottore non posso dire più nulla. In effetti, seguendo la logica... Ma che cosa vuoi dire? Che quello che sostengono i vegani è una puttanata? È una grande puttanata. È anche vero che probabilmente se loro stanno, gli sta bene così, va bene così, ma non possono venire a pontificare. Ma si autoconvincono che il sesso si fa meglio da vegani, questa è la realtà. Ma molto probabilmente è una grande pippa mentale quella che si fa. Non c'è dubbio, vabbè, ciao Americo. Nicola da Varese, vai Nicola. Nicola. Ah, Nicola è quello che ci ha scritto dicendo chiamatemi, è vero che lei mi ha fatto dimagrire di 35 kg. Nicola. Pronto, sì, è vero. Ho perso 35 kg in 3 mesi. Ma come cazzo hai fatto? 35 è un botto. Ma è un botto, cioè, magari un obeso, sì, magari. Ero 137 kg. 137. E adesso sono 103. 103, che pure non è pochissimo. Però, ha mangiato Krafen la mattina. Quanto sei alto, scusa Nicola? 1,87. Vabbè, non sei piccolo, diciamo, non sei minuto. No, diciamo. Però, 137 eri quasi obeso, diciamo, no? No, ero più che obeso. Più che obeso. Male, scusa, ma allora tu mangiavi spaghetti la mattina oppure quello è il mantenimento? No, mangiavo spaghetti la mattina, le cipolle. Tutto quello che abbiamo sentito. Tutto quello che abbiamo sentito. Ma è vero che ti ha insultato? Sì, sì. Cioè, appena sei andato là ti ha insultato? Sì, sì. Mi ha detto... Ma non ti fai schifo, questo è... Scusami Nicola, è stato l'inizio. Ma stato spiegami l'inizio. Una cosa, ma tu qua, a 137 kg come facevi con l'uccellino a fare... Mia moglie è contenta, diciamo, adesso che sono dimagrito. Ah, è contenta che sei dimagrito, diciamo, no? Sì. Ho guadagnato centimetri. Non gliela facevi, se no? No, ce la facevo, ma ovviamente c'è molta più prestanza. Ragazzi, sono problemi. Parenzo, tu sottovaluti queste cose. Noi l'Erdogan, la Turchia, le cose, il casino che c'è oggi tra la Turchia, no? Putin, lo sappiamo. Però poi alla fine la gente guarda anche queste cose qui, capito? Sì, si interessa alle grandi cose, no? La politica italiana, il califfo, per carità. Però poi quando c'hai i problemi che c'ha Nicola, che aveva Nicola 137, eccetera, uno dice che me frega del califfo, no? Un altro mondo, quindi consiglio tutti, perché vabbè, adesso facciamo pubblicità a noi dietologi. Però è vero, tu sei dimagrito di 35 kg. Vabbè. Sì, Andrea Milano, vai Andrea. Saluti. Andrea. Allora, Cruciani, mi senti? Ti sento, Andrea, dimmi. Ciao, io sono di Milano, ma mie origini sono rumene. Ciao. E che te devo dire? Volevo dirtelo a te. No, una cosa, una ricetta per gli animalisti: bisogna prendere dei granchi quando cambiano il carapace, per cui perdono il loro guscio, li prendi, e camollo dentro una terrina con l'uovo sbattuto, loro se lo mangiano tutti. Poi prendi il granchietto bello pieno di uovo sbattuto e lo sbatti nell'olio bollente. Mm. E questo diventa una cosa veramente buona e sadica, come piace. È vivo. E vivo lo mette nel... No, no, vivi li devi mettere dentro, c'è più gusto. Perché loro devono... Non ho capito, li devi mettere dentro vivi? Questo è pazzo. Ah, assolutamente sì, li devi prendere e li nutri finché sono vivi dell'uovo sbattuto, con un po' di sale e di formaggio. Poi? Loro vanno ghiotti di questa cosa, sì? Dopodiché li prendi e li metti dentro l'olio bollente e poi sì, te li mangi. Questa era la carnivorata per la serata, per tutti quanti gli animalisti. Poi l'altra cosa che volevo dirvi è che quest'estate abbiamo nuotato nella stessa piscina. Come abbiamo nuotato nella stessa piscina, scusa? Sì, sì, tu eri a Courmayeur a fare qualche evento. Oh, hai capito, beh, Courmayeur, assolutamente, ero a Courmayeur un fine settimana invitato l'amico da una... del popolo a Courmayeur. Io non dico, sei tu che dici di essere amico del popolo. No, tu fai del populista e cose. Ma che c'entra? A Courmayeur era, ero a Courmayeur, assolutamente, ero a Courmayeur un fine settimana, alla fine di agosto, per c'era una conferenza, c'era anche Sgarbi. Una conferenza. Tu eri non so con chi, di fatto non hai un gran pacco anche quando sei in costume, però quando, quando poi sono nella piscina non sono andato in piscina, per cui non sono andato in piscina, ti sbagli, non era Courmayeur, sì, perché non sono andato in piscina, c'era un freddo della Madonna, amico mio, cioè. No, eri nella piscina, ma no, ma ti assicuro, ti assicuro. Vabbè. E quando ti ho visto lì, la prima cosa che ho fatto con tutto quello che hai detto contro i rumeni, ho fatto piscio in piscina. Così anche più. No, ma scusa, Andrea, innanzitutto tu magari sei dipendente di quell'albergo e magari hai pisciato dentro quella piscina lì. E poi io ti assicuro che non sono andato in piscina a Courmayeur. Ti sbagli. Ah, sì, forse sì, hai ragione. Hai ragione. Sono andato in una piscina. Termale, in una piscina bravo, termale, una piscina bravo, termale, è vero, hai ragione. Aveva fatto il regalino dentro, da quanto te vuole bene. Hai pisciato là dentro tu? Quando ti ho visto sì. No, ma davvero stai dicendo? Ma è una cosa gravissima, io ti denuncio, era una piscina termale famosissima. No, non è vero. Ti ha fatto il regalino, da quanto ti vuole bene. Maria Rosa, Milano, certo. Dai, Maria Rosa, ciao. Milano, ciao, Maria Rosa. Cruciane, salve Cruciane. Dimmi. Innanzitutto le voglio dire che purtroppo per voi ho una mente super razionale. Per il resto vi ascolto, ma rischiate di diventare noiosi. Ma cambiate, guardi, argomenti. Vi assicuro, ti assicuro che non è quello il problema. Guarda, cioè, la noia non appartiene a questa trasmissione. Poi naturalmente ci la possono saluto, essere. Cruciane. Ci possono essere. Che hai chiamato? Per dire sta stronzata? Hai chiamato per dire di questa stronzata, lei, ma io ne dico di più lei. Lo sai qual è la differenza? Sei arrabbiata per quello che hai detto. No, ma lo sai la differenza? Sì, era arrabbiatissima. Corrado da Parma, prima però fermi tutti. Beh, a parte che volevo dirti che comunque la Zanzara è un pompino radiofonico straordinario, siete straordinari. Invesco per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta, state ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Ragazzi, stavo ascoltando a radio anch'io la polemica sulla l'opportunità o no di fare il presepe in classe. C'è qualcuno che lo vuole vietare, io dico siamo alla follia. Con tutto quello che non va in questo paese stiamo a pensare a queste puttanate, ragazzi. Riprendiamoci. Stato laico un cazzo in Italia, un cazzo, perché col giubileo alla fine i soldi a chi vanno? Al Vaticano o alla città di Roma? Voi seguite i sette comandamenti dell'ecorgasmo? Allora ragazzi, l'Italia è proprio un paese assurdo, difficile cambiare certe abitudini. Io spero che escano fuori tutti i nomi, che i funzionari vengano puniti, licenziati, cacciati, le foto devono essere pubblicate sui giornali. All'ufficio contravvenzione del Comune di Roma, Parenzo, non so se hai letto, con un danno di diversi milioni. Sono state cancellate agli amici, amici, decine e decine di multe. Addirittura a un solo automobilista sono state tolte delle sanzioni per 600.000 euro. se, ma solo in Italia succedono queste cose. Ma cioè, non esiste, questo, sì, non esiste un paese al mondo, è vero che non esiste un altro paese dove i comuni per incassare più soldi si rifanno spesso sugli automobilisti. Questo è vero, bisogna ammetterlo. Però, amici miei, a un solo automobilista sono state tolte delle sanzioni per 600.000 euro. VIP, imprenditori, pazzesco. Falso, abuso d'ufficio, truffa. Pazzesco, cioè, pazzesco. Qui la cosa è questa: se tu prendi una multa, di solito ci sono le strade per fare ricorsi, no? Ormai abbastanza semplici. No, no, cosa fai tu? Ti rivolgi a uno e te la fai togliere, ma io ti faccio un mazzo così. When I was young, it's not my problem. Luciano, provincia di Lucca, vai Luciano. Ciao, ora penso così tardi siamo un po' forse fuori argomento. No, qui ci sono, si possono affrontare tutti gli argomenti. Quando tutti. Parlavi di quello che diceva mangia i conigli, ce n'ha 600 e li tira al collo, io ti dico, guarda che non si fa così con il coniglio. Si prende per le zampe posteriori in alto, un bel colpo di karate tra il collo e così muore il coniglio. Ma scusami un attimo Luciano, ma tu sei un allevatore? No, io da ragazzo ho dovuto fare un po' tutto perché nella vita mi sono dovuto sempre arrangiare. Ora non sono più ragazzo perché ho 75 anni, però ho fatto anche questo. Anzi, una volta, siccome ho fatto anche del pugilato, ho dato troppo forte e gli ho staccato la testa. Ride, no, vabbè, non c'è niente da ridere, ragazzi. Ma Parenzo, però bisogna essere anche realistici. Se si ammazza, no, non c'è se il coniglio si ammazza in un certo modo, punto e basta. È colpo secco, e come Bondi si tira al collo. E la cosa è questa, che di volte no, ma dico solo che non c'è da ridere, cioè, se c'è la sofferenza, non c'è da ridere, siccome comunque c'è. E ma soffrono, secondo te, Luciano, soffrono? Ma certo che soffrono. No, no, no, fanno appena due o tre vibrazioni e finisce lì. Beh, insomma, qualche vibrazione ci sarà, qualche sofferenza. Bisogna essere anche realistici, realistici. Se uno si impicca e le fa qualche movimento è uguale. Beh, ma uno si impicca qualche momento di sofferenza ce l'avrà. Cioè adesso, no, ragazzi, io ti confesso che se ci penso, sì, davvero non la mangio. Adesso bisogna essere ascolta, Giuseppe, se... io se penso alla macellazione, allora, che non ho qua, come mai visto dal una vivo. Spalla che tra l'altro con lo stesso colpo di karate gliela vorrei fratturare, la spalla che c'hai accanto, lui è ebreo, non mi pare? Sì, sì. Beh, sì, come loro fanno per ammazzare gli agnelli uguale vero, agli vero. No, no, no, questo dimostra che il signor Luciano della provincia di Lucca non sa come si dice in questi casi tecnicamente un cazzo. Cioè... la macellazione ebraica o kasher o halal, che è quella islamica, non islamista, intanto islamica, prevede uguale, prevede Parenzo, lo no prevede dai, lo sgozzamento, beh no, non è uguale, lo sgozzamento del, dalla carotide con scientificamente dimostrato con l'uscita del sangue un impatto sulla sofferenza che è ridotto al tu minimo. Tu stai dicendo che la macellazione ebraica è più pura, chiedilo a qualunque veterinario. Lo fai morire dissanguato. No, perché recidi esattamente quel punto, la scechità. Allora è meglio, come Davide, tu mi stai dicendo, devi chiedere a qualsiasi. Sì, d'accordo, tu però mi stai sostenendo. La macellazione ebraica è meno invasiva delle altre. Sai perché? Ah, Ti spiego perché. Ma non te lo dico io. Te lo dice qualunque veterinario. Sai perché? Perché la prescrizione ebraica. Ma se vuoi te lo spiego, se vuoi non te lo spiego. No, no, me lo puoi spiegare, ma non ci credo. Vabbè che non capisci un cazzo, ma questo perché ma nella tua semplicità no, non capisci un cazzo, però poco male. Porti l'acqua al tuo mulino. Ma quale mio mulino? Ma mi interessa, io la mangerei comunque, quindi non è quello il tema. Il tema è che è proprio una prescrizione, perché meno soffre, meno si deteriora la carne. La loro macellazione è tant'è che la carne kasher cosiddetta è quella più controllata perché è sottoposta a più controlli. Vengono ammazzati gli animali? Gli animali vengono ammazzati sempre, dai, su, vengono ammazzati con sofferenza, dai, ma è con sofferenza anche. Riduce la sofferenza al minimo, quella tecnica riduce al minimo la sofferenza. Vai, sì, vai, i secondi, perché a differenza di quando gli spari, ragazzi, Giuseppe, facciamo un simposio, chiedete a qualunque veterinario. Giuseppe, che vi devo dire? Dimmi. Giuseppe, come mai nessuno ha fatto dimostrazioni contro le macellerie islamiche che ci sono in Italia? Le hanno fatte? Qualcuno le ha fatte? Sì, hanno fatto pure le hanno fatte. E stanno a rompere i vegani e compagnia bella. E i vegani pensano a loro ani. In che senso? In che senso pensi ai loro ani, scusi? perché per me i vegani sono tutti un po' frosci. Questo è un intellettuale questo qui. Cioè tu dici chi sceglie il veganesimo è un po' omosessuale. Adesso, prima ha detto uno che come mangia verdura ce l'ha più duro, che ci mette una carota o uno zucchino nella figa, tanto per intendersi bello chiaro. Luciano da Lucca, hai capito? Luciano da Lucca delle 20 a 42, hai capito il livello? Però, ma che livello? Scherza, ride, gioca, dai. Luciano da Lucca. Ascolta, dimmi. Io sono un vecchietto di 75 anni che ancora va giù a pallone, si diverte, ha fatto una vita che te non te la puoi nemmeno immaginare, perché io sono stato 16 anni in collegio da orfano e poi ho fatto anche il militare. Veramente? Quindi, la vita me la sono costruita. Bravo, va bene, chi se ne frega. Ma ancora sei attivo da quel punto di vista? Ho giocato anche ieri sera. Anche ieri sera? Ai trombè. Sessualmente sto bene. Anche ieri sera hai fatto? Ma figurati, hai fatto la solita figura barbina. Dai. Ma scusa, quanti... Parenzo! Ma figurati, dai. Anche la solita figura l'hai fatto. Anche se ti vedo non ti penso. Che ridono tutti, dai, lo sanno tutti lì. Ma perché dici che fa brutte figure sessuali, scusa? Lo chiamano Lucianone, in realtà è Lucianino. Lucianino, perché sono anche abbastanza basso di statura, non mi vergogno a dirlo. Lucianino, lo sanno tutti. No, non per quello, per altre ragioni, lo sanno tutti a Lucca. Sì. Se vai a Lucca, tutti dicono, Lucianino. Io sto a Viareggio, guarda, sto in un bel posto, sto a Viareggio. Bravo. Vabbè Luciano, ciao caro, ciao. Giuseppe, ciao. Tante cose. Ciao. Tante cose. Siamo quasi alla conclusione ragazzi, però prima rubrica radio, secondo voi che cos'è? Cos'è il peggio di Radio Padania? Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guardava... Vai col presepe, Parenzo, vai! Servi di Roma fuori... E proteggere il presepe dall'agguato islamista. Guardava. Mettiamo buon anno. Guardava. Lui farà l'asinello non per mentre Salvini farà il remaggio. Vai e nel sito porterà dell'oro. Ops, lì davanti. Il bambino Gesù. Ci sarà l'incenso. Fai vedere. Eppure anche un po' di mirra. Tutto preso col finanziamento pubblico. Ai partiti. Figlia del. Tutto per la libertà. Barin! Servi di Roma fuori. Pronto a fare marcia indietro sulle tradizioni. È il vescovo di Padova che si è fatto la cacca addosso, Claudio Cipolla, e ha deciso, sì, e fosse per lui, insomma, facciamo un passo indietro per mantenere la serenità e soprattutto per non fare incazzare gli islamici. Oh, qui non ha torto, zio Barin, eh? Senti, mi commenti la Shura 291, per piacere? Non so, guarda che... La conosci a memoria o ti devo sparare alla schiena con il Kalashnikov? Se io fossi un terrorista ti sparo, o me la reciti a memoria o ti sparo. Il popolo nella tempesta, come una madre e un figlio. Senta, io vorrei dire due cose su un uomo piccolo. E mi riferisco a David Parenzo, il quale ride e deride abitualmente la Lega. Se la Lega gli avesse dato un incarico sarebbe diventato leghista ipso facto. La libertà. La nonnina. C'è un ruolo che potrebbe ricoprire Parenzo nel presepe e sentirsi onorato, quello di asino. La nonna padana. Servi di Roma fuori. Io le adoro queste qua. Cucina i pizzocchi. Le adoro. Cucina i pizzocchi, la nonnina. Padania bella e libera. Vabbè, guardava. Stefano dalla provincia di Cuneo, vai Stefano. Ciao, volevo portarti il dio Po. Credevano nel dio Po prima, dai, ma ragazzi, ma come si fa? Cioè, tutti ci sono passati dal dio Po al presepe. Come si fa a far difendere il presepe a chi metteva delle corna sulla testa e andava con un'ampolla a prendere dell'acqua? I tempi cambiano, dai, i tempi cambiano. Su. Sì, per carità, però questi difendevano il dio Po e adesso improvvisamente difendono il presepe. I tempi cambiano, amico mio, cambiano. Stefano, vai. Allora, sia l'M che il coniglio, ti posso dire di tutte e due le cose, testimonianze vere. Sì, però vai, amico mio, senza allora, interferenze. La mia compagna ha perso 18 kg. È vero, era una merda quando è entrata, gli ha fatto aprire... Cioè, la tua compagna l'hai portata dall'M? Sì, lei quando ha partorito, dopo 6 mesi, aveva ancora 18 kg. Sì, e poi? E allora aveva sentito che c'era questo fenomeno, come io lo chiamavo, ha detto andiamo a Milano. È entrata nello studio, l'ha insultata e poi gli ha fatto aprire le gambe... e le braccia. Beh, se mi dici così, hai aperto le gambe e le braccia, può sembrare strano. Fa vedere che c'era ciccia dappertutto. Era cicciona dappertutto. Sì, c'era ciccia dappertutto, tutto vero, cioè ci stava, io ci ridevo e lei soffriva, ma va bene così. E cazzo, poi ha fatto perdere tutto quello che doveva perdere, perché è stato bravo. Cioè, secondo te è un genio? È un genio perché al mattino odori strani, cipolle, spaghetti con peperoncino, io facevo la mia colazione. E lei mangiava quello. E poi si portava ancora spaghetti, peperoncino e un coniglio intero al lavoro. Poteva mangiare di tutto. La quantità non era mai messa in discussione, ma quello doveva mangiare. Perché lui voleva dare la scossa al metabolismo. Mm. Effettivamente ha funzionato. Ma adesso con tua moglie come va sessualmente? Male. Male lo stesso, non è cambiato un cazzo? Cioè ha perso 20 kg? Quando è nato il bambino, male. Cioè, ci manca è un casino. I bambini sono un casino, guarda, da questo punto di vista, Stefano. No. Cioè fanno perdere un sacco di sessualità, di intimità. Non sempre, ovviamente, però può succedere. No, non ti sento più, Stefano, non ti sento, amico mio, non ti sento. David, no. David, provincia di Treviso, era interessante, David. Stefano. Bel nome. Questo. David, sì, David. David. David. Perché David, scusami? Perché a mio padre e a mia madre piaceva David Bowen, quindi mi hanno chiamato mia, così. Pure questa, gente strana. Che gente strana che c'è. Cioè, che i genitori di questo signore della provincia, sì, di Treviso, io ho in testa David Bowen e chiamano il figlio David, ma è una cosa normale, sì, no? Cioè, un Francesco, un Giuseppe, un Giovanni. Ma un David. David scritto con la E. Beh, scusa, che cazzo c'entra David? Io invece mi chiamo David. Hanno sbagliato, esatto. Tu pare ha sbagliato all'anagrafe. Sì, ho detto non voglio che lo chiamano David, perché nel 76 sicuramente qualcuno avrebbe preteso. E invece? E quindi ha detto io scrivo David, come lo dico? E ha italianizzato David. Mamma, hai capito? Mia, quindi all'anagrafe, cioè tu nella carta d'identità, nella patente, cioè, c'è scritto David. David. Sì, con la E, sì, esatto. Ma incredibile. Allora? Allora, guarda, ti rubo 3 secondi perché volevo un attimo focalizzare sul problema, sì, sulla continua lotta tra vegetariani e carnivori. Mm. Io invece sostengo un'altra tesi, ed è questa: bisogna finirla con la sofisticazione dei cibi. Mm. E quindi bisogna tornare a farsi l'orticello in casa, ad allevare conigli, galline, ad allevare maiali. Questo bisogna fare, perché il problema non è in quanto... Vabbè, ma questo è un altro discorso, cioè, no, è questo Cruciani, il problema è che mangiamo... Sei quasi grillino tu, l'autarchia, grillino, no, chilometro zero, Parenzo. Ma che, normale, che ne pensa Grillo dei vegani, per esempio? No, quello curioso. È vegano, è meraviglioso, la Merkel è vegana. No, ma non è vero, è cioè, certo, no. Normale, devi mangiare quello che hai. A casa mia, ad esempio, ci sono solo vermi, e quindi mia moglie è andata via, cucinavo vermi, non c'era niente, sai? Sassi, raccogli, è normale, evidente. Ma no, dai. Una volta ho buttato dei sassi al posto della pasta, no? Nell'acqua, non bolliva un cazzo, ho mangiato il sasso e si sono spaccati tutti i denti, ma è normale, ovunque è così, ovunque. Germania. Allora ragazzi, voglio chiudere con una lettera che ho letto, fantastica, i misteri del sesso. Noi siamo accanto a un servizio di cronaca vera, Parenzo, in cui c'è, tu mi querelerai, mi riquerelerai per diffamazione. Questo è un dono d'immagine non indifferente. Allora, i misteri questo, del sesso, a cura del professor R. Dell'Alba, ti giuro, ma voglio leggere una di queste lettere che è arrivata. No, domani, è strepitoso, aspetta, rapporti orali, adesso, senti qua. Tra me e mio marito ci sono spesso, scrive una finta secondo me, tra me e mio marito ci sono spesso delle liti, perché lui vorrebbe i rapporti orali, mentre io non riesco proprio ad accettarli. Prova ne sia che spesso ho conati di vomito. Ma è giusto che io debba fare delle cose che mi ripugnano solo ad accontentarlo? Solo per accontentarlo? Una tale F. 29enne. La risposta del professor dell'Alba è questa: no, non è assolutamente giusto, e se suo marito le vuole bene dovrebbe smettere di chiederglielo, quando anche nel suo interesse, anzi questo anche, ma che cazzo c'ho stasera, questo anche nel suo interesse, perché se viene imposta una pratica sessuale che la partner trova ripugnante, si corre il rischio che questa diventi frigida. Glielo faccia presente. Un genio, a domani. Ma Cruciani, a te ti tira, perché te sempre parli con di sesso. Ma io ti abbraccio forte, capito? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente.